qualcuno o qualcuna di chi ascolta Radio Onda Rossa forse l'avrà riconosciuto in Fila per tre di Bennato, e forse si ricorderà che è la sigla di una trasmissione che è andata in ferie un paio di mesi fa e adesso torna dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Si tratta dell'Ora di Buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Buonasera a chi ci ascolta. Abbiamo deciso di iniziare questo ciclo di trasmissioni sulla scuola e per tutte e tutti coloro che nella scuola in qualche modo hanno a che fare, quindi docenti, studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici e naturalmente anche le famiglie. E abbiamo deciso di cominciare con una lettera che abbiamo trovato noi, perché sui giornali ovviamente non ce n'è traccia, ed è una lettera che è stata fatta dai professori della scuola secondaria greca diretta ai loro studenti, alle loro studentesse, e da questa radio ne abbiamo parlato, quantomeno nei giornali radio e non solo, che è in corso in questo mese in Grecia una forte mobilitazione di tutto il corpo insegnante, e in particolare anche della scuola secondaria, con modalità diverse, ma sostanzialmente è una mobilitazione dura, molto determinata, perché per esempio l'ultimo sciopero si è articolato in 5 giorni. Diciamo, non tutti i sindacati sono univoci sulla durata e le forme di lotta, ma comunque si va da scioperi di 48 ore, scioperi appunto di 5 giorni, che in una situazione poi pesante economicamente come quella greca si può ben capire insomma, che carico comporti. Però nonostante questo, siccome l'attacco alla scuola in Grecia, alla scuola pubblica greca, è particolarmente pesante e ci sembra che comunque sia un dato sicuramente quantomeno europeo, e così altrettanto hanno pensato di intraprendere una lotta altrettanto tanto dura. Quindi c'è questa lettera, noi adesso la leggeremo un po' a più voci, perché pensiamo che possa essere benissimo uno stimolo, comunque un impulso alla riflessione da parte di chi lavora nella scuola italiana, perché le considerazioni che si fanno alla fine, pur nella diversità delle mobilitazioni, bisogna dirlo, alla fine sono le stesse. Allora, cara nostra studentessa, caro nostro studente, è passato ormai molto tempo da quando questi giorni di settembre erano per tutti noi un dolce ritorno a scuola, con lo scambio delle esperienze estive, con la progettazione e le decisioni sul nuovo anno scolastico, con il rinnovo della promessa che faremo tutto il possibile per vivere bene. È passato ormai molto tempo da quando i governi dei memoranda e tutti coloro che li servono hanno deciso di distruggere la scuola pubblica, di trasformarla in un'azienda grigia e severa che avrà spazio solo per i figli di pochi. Qualcuno cerca di convincerci che si tratta di una cosa normale e logica. Aspettano di farci abituare alla distruzione, ma tutti sappiamo che questo sarà difficile che succeda, perché non possiamo vivere così, ma anche perché vorrà dire che dobbiamo rinunciare, sia noi che tu, a essere delle persone, ad un mondo migliore, alla forza del tuo impeto giovanile e creativo, al desiderio forte di cambiare le cose intorno a te contro le abitudini ed il compiacimento dei grandi. Dopo questo settembre, quindi, niente sarà lo stesso. Noi, i tuoi professori, abbiamo deciso di ribellarci con uno sciopero per la difesa della scuola pubblica, della nostra e della tua vita. Di fronte a noi abbiamo i dirigenti dei ministeri, i manager ben pagati, i telegiornali, che non hanno mai smesso di ripetere che la nostra lotta nuocerà alla scuola, non la loro politica barbara. Queste persone, vivendo da anni nei salotti del potere, non sono in grado di rendersi conto dei tuoi bisogni, delle tue ansie e dei tuoi sogni. Per queste persone del sistema sanno solo fare i conti, e in questi conti hanno trovato che la scuola pubblica è di troppo. Durante l'estate hanno portato avanti l'opera distruttiva della fusione abolizione di scuole, hanno chiuso all'improvviso in una notte molte scuole e hanno abolito alcune specializzazioni dell'educazione tecnologica, spingendoti tra le braccia delle scuole private. Nel contempo, il governo cerca di completare la trasformazione della scuola in un campo di esami forzati, un centro di allenamento per gli esami, visto che invece di elaborare un programma che miri alla conoscenza sostanziale e versatile e che riduca la pressione insopportabile che stai vivendo, crea un meccanismo disumano di setaccio di persone basato su esami continui dalla scuola media fino al tuo ultimo giorno di liceo. Vogliono spaccare la tua gioventù, vogliono farti abituare al controllo, così domani sarai un impiegato obbediente. Vogliono cacciarti via dalla scuola, così diventerai un lavoratore non specializzato conveniente, se riuscirai a trovare un lavoro. Progettano una vita scolastica sgraziata e spiacevole, con più ragazzi nelle classi e nei laboratori, con meno professori che correranno trafelati, ognuno di loro in molte scuole, per assolvere il loro compito. Con lo stesso disprezzo per qualsiasi cosa viva e bella, le stesse persone ci impongono di essere valutati, cioè di trasformare quello che amiamo di più, i nostri studi e la nostra educazione, i programmi e i lavori che facciamo insieme a te, tutte quelle ore di gite, spettacoli teatrali, discussioni, prove, concerti, in carte che riempiranno la nostra cartella per salvarci dal licenziamento. Insieme a questo hanno creato un asfissiante codice disciplinare che ci vuole persone docili, che pensino a insegnare e a nient'altro. Cominciamo questo anno scolastico in meno, con delle scuole chiuse nell'educazione tecnica e generale, con oltre 10.000 colleghi ai quali hanno tagliato la strada verso la scuola. È una situazione che tu conosci in prima persona, perché sono anche i tuoi genitori che subiscono lo stesso violento attacco con i tagli ai salari, i licenziamenti, la chiusura dei negozi e il disperato mostro della disoccupazione. Perché sei anche tu che tutti i giorni devi contare i pochi spicci di fronte alla mensa, avvelenare il tuo successo agli esami di ammissione con lo stress per le possibilità economiche, che ci chiedi se ha più senso studiare quello che volevi o se c'è qualche altra facoltà che ti porta ad un salario più sicuro per sfuggire magari dalla miseria. Perché sono anche i tuoi fratelli e i tuoi amici, cioè i nostri studenti di ieri, che ci dicono che qui non ce la fanno più e che cercano fortuna all'estero, sulla strada dell'emigrazione, che in passato avevano percorso i loro nonni e speravamo che non dovessimo rivivere per forza. I nostri problemi sono comuni, non solo per noi e per te che viviamo, creiamo, lottiamo e sogniamo nello stesso spazio, ma per l'intera società, una società che può permettersi di subire inerte gli attacchi che si susseguono uno dopo l'altro. Ed è per questo che noi, i tuoi professori e le tue professoresse, abbiamo deciso di ribellarci in questa lotta decisiva che romperà la putrefazione del niente può succedere. In questa lotta vogliamo al nostro fianco tutti i lavoratori, vogliamo i tuoi genitori, ma abbiamo bisogno anche di te, non per evitare gli obblighi che sono nostri. Il costo della lotta lo subiremo noi completamente, nonostante le zozzerie che trasmettono alcuni media. Ti vogliamo al nostro fianco, come anche dentro l'aula, perché è la tua partecipazione che dà senso alla nostra lotta. Solo insieme possiamo rompere il dominio del fatalismo e della miseria, solo insieme possiamo rimanere in piedi e dimostrare che non siamo solamente un altro mattone nel loro muro, un altro ingranaggio nella loro macchina. Dopo questo settembre, quindi, niente sarà più uguale. Questa lotta o sarà vinta dalle politiche della Troica e del governo che la serve, che ci impongono la devastazione e la miseria, o sarà vinta da noi, aprendo la strada per la scuola del futuro, per una vita creativa e libera per tutti. Noi, i tuoi professori e le tue professoresse, ti chiediamo di stare al nostro fianco, di aggiungere la tua determinazione alla nostra e di diventare parte dell'enorme fiume popolare che riempirà le strade del paese e vincerà. Con affetto, i tuoi professori e le tue professoresse in lotta. E la lettera è firmata alla Federazione dei Professori di Insegnamento Secondario. Io posso dire così a caldo che a me piacerebbe averla firmata questa lettera. In Italia forse la crisi, come dire, sanguina meno che in Grecia sicuramente, insomma. Però mi piacerebbe partecipare a un movimento di lavoratori e lavoratrici della scuola, di insegnanti, che riflette in questo senso su la distruzione e il disprezzo che viene addossata alla scuola pubblica anche nel nostro paese, non soltanto in Grecia, cioè che è un movimento di insegnanti che pensi a cosa significa nella società il disprezzo che viene usato verso la scuola pubblica, cioè che come dire, che lavoratori e che lavoratrici produce questo meccanismo. A leggere questa lettera, a me questa è la prima cosa che viene in mente, ecco. Le differenze sostanziali, cioè quello che succede qui e quello che succede là, poi ovviamente questa è una lettera che non è che hanno firmato tutti, è una federazione sindacale, quindi insomma pure questo dobbiamo tenerlo presente, però nell'analisi che fa della situazione, soprattutto degli obiettivi di chi questa situazione ha creato, ci troviamo tranquillamente anche noi qui in Italia, ed è al di là delle parole, comunque il fatto di riconoscersi e chiedere agli studenti e alle studentesse di riconoscersi in un movimento più generale, quindi di uscire dal proprio orticello, cioè quello della scuola in questo caso, se orticello lo possiamo chiamare, comunque insomma dalla propria situazione, e capire che questo è solo un anello di una situazione più generale, ovviamente, perché quando per esempio si parla della distruzione della scuola pubblica per creare poi un tipo di cittadino e di cittadina, questo insomma mi pare un discorso generale che può veramente essere un punto d'unione poi non solo fra docenti e studenti e studentesse, ma insomma fra tutti e tutte coloro che si trovano a patire questa crisi. Il disegno da qui si capisce che è evidentemente uno solo in tutta Europa, no? È molto chiaro, ovviamente con tempi diversi date le situazioni. Qui non abbiamo ancora i licenziamenti nel settore pubblico che ci sono in Grecia, ma quando tu chiudi la porta in faccia a centinaia di migliaia di precari e precarie, non solo nella scuola, di questi giorni il balletto vergognoso sui 300.000 o 500.000 precari della pubblica amministrazione, che prima si diceva c'è stato un decreto per la loro stabilizzazione, adesso invece si fa marcia indietro perché non ci sono i soldi, è evidente che comunque non licenzierai formalmente, ma di fatto crei comunque ulteriore disoccupazione. Sì, è vero, insomma anche io riflettevo proprio su questo, cioè sul fatto che quello che emerge almeno ai miei occhi da questa lettera è che poi il disegno è un disegno globale che coinvolge la Grecia nella situazione di crisi devastante che vive, ma che coinvolge poi tutti quanti noi. E a proposito di disegno univoco, ricordiamolo anche quello che è successo in Grecia quest'estate, a cui fa cenno la lettera, cioè sono stati licenziati oltre 10.000 insegnanti pubblici attraverso un processo di abolizione e cancellazione dal curriculum di studi di alcune discipline, soprattutto del settore tecnico, e quindi accorpati contestualmente indirizzi di studi. E questo è un meccanismo che va tenuto presente e va conosciuto, soprattutto per la poca eco che ha avuto nei media italiani e che ha avuto in Italia e anche nel mondo della scuola italiana, sebbene la Grecia sia così vicina culturalmente e anche geograficamente. E poi insomma il fatto che l'aria che si respira, l'aria che tira per così dire, sia la stessa, si emerge proprio attraverso tutta una serie di riferimenti che sono gli stessi riferimenti che sono emersi spesso anche nel corso di questa trasmissione. L'accento per esempio sulla scuola come esamificio, come esami continui che sono solo momenti di verifica che servono più che altro a disciplinare lo studente e che servono a costituire un sistema di valutazione del lavoro degli insegnanti finalizzato al licenziamento. È il discorso che abbiamo fatto tante volte sull'Invalsi, sulle modalità di questi quiz e sul peso e sulla ricaduta che poi hanno sulla didattica, l'accenno allo scadere della scuola pubblica a favore del sistema di istruzione privata e così via dicendo, insomma. Cambiamo argomento, in realtà rimaniamo nello stesso argomento, perché anche se non ci sono stati licenziamenti formali per quanto riguarda i docenti, l'anno, il nuovo anno 2013-2014, l'anno scolastico, è cominciato con pochissime scuole, con qualche volto nuovo, perché il Ministero ha comunicato, ha pubblicato il 2 settembre, quindi all'inizio dell'anno di quest'anno, il fatto che 11.268 docenti erano stati messi in ruolo entro il 31 agosto. Quindi ha presentato delle tabelle ai sindacati e vantando questo miracolo, hanno parlato di miracolo, quindi come se a noi sono venute subito le bolle, perché hanno spacciato questa assunzione di 11.000 docenti come un grosso successo anche organizzativo, perché hanno fatto tutto in una settimana. Perché hanno fatto tutto in una settimana? Perché loro hanno l'obbligo entro il 31 agosto di chiudere, di avere il quadro chiaro di quanti docenti devono insegnare, quanti devono essere assunti, immessi in ruolo. E però per tutta l'estate sono stati in grosse difficoltà, perché c'era questa spada di Damocle che si sono da soli creati del concorso dei docenti. Ne abbiamo parlato diffusamente negli scorsi mesi, è il cosiddetto concorsone, che poi è diventato un concorsino, che dopo diversi anni era riservato ai docenti e che prevedeva diverse fasi, tra cui il famigerato test d'ingresso, il quizzone, e poi le prove canoniche, quelle scritte, quelle orali. Peccato che però dal punto di vista organizzativo è stato piuttosto fallimentare, e quindi le regioni si sono trovate a fine agosto a dover organizzare delle graduatorie. Innanzitutto le commissioni dovevano chiudere il loro lavoro, e questo non è riuscito a tutte, e poi capire chi doveva essere immesso in ruolo. Allora, 11.000 docenti, di questi 11.000 docenti diciamo il 96% il Ministero dichiara di averli assegnati entro il 31 agosto, quindi diciamo che oltre 400 persone a cui spettava la cattedra sono rimaste fuori. È un successo, loro dicono, però intanto ci sono 400 persone che, pur avendo diritto di entrare in ruolo e quindi forse veder coronata, no, una parte dei sogni della propria gioventù e anche diciamo forse anzianità, perché ci sono, se andiamo a vedere l'età di alcuni docenti che vengono mezza età, se non proprio vicina alla pensione, ci sono anche casi estremi che però diciamo possono anche non interessarci come discorso. 427 persone non hanno avuto il posto assegnato, e a questi sono prorogati di un anno, quindi questi saranno assunti il primo settembre del 2014, avranno una nomina retroattiva, diciamo. Andiamo a vedere quindi chi sono questi 10.711 nuovi insegnanti, nuovi si fa per dire, e scopriamo che questo, il concorso che doveva essere la via, no, maestra, finalmente quella chiara, quella con i tempi chiari, quella che doveva dare certezze a un mondo che certezze ne ha poche, come quello della scuola, in realtà soltanto il 29% di questi 11.000 docenti assunti, quindi 3.255, provengono da questa selezione del famigerato concorso. E Profumo, no? Parliamo del ministro, ex ministro Profumo. Volevo solo dire una cosa a questo punto, visto il numero di 3.265 che è l'assunzione del primo anno, però volevo ricordare che al concorso hanno partecipato più di 300.000 persone, se non sbaglio, proprio per la fabulazione in qualche modo creata da questa possibilità di ingresso nel mondo della scuola, così come dato iniziale di riflessione. Prego. Sì, altro che uno su mille ce la fa, in effetti i numeri erano proprio questi. E peraltro questi 3.255 provengono dalle graduatorie delle regioni che sono riuscite a terminare questi concorsi, perché andando a scorrere le regioni, i docenti entrati nelle diverse regioni, noi scopriamo che il Lazio detiene il record, ovvero zero persone, zero docenti immessi in ruolo sui 1274 posti a disposizione per il Lazio, per tutti gli ordini. Il concorso riguardava tutti gli ordini, dall'infanzia alla secondaria superiore, sostegno compresi. Il Lazio quindi ha prodotto zero docenti, quindi 1274 posti sono stati presi dalle graduatorie che già c'erano, cosa che avevamo già ampiamente detto e che tutti sanno. Toscana sta leggermente meglio, ma è un disastro anche lì: soltanto 20 docenti sono stati assunti su quasi un migliaio, quindi siamo al 2%, e la Sicilia 93 docenti su quasi 600, quindi il 16%. Complessivamente poi c'è anche le regioni, diciamo quelle forse considerate laboriose, Friuli, Liguria, che hanno comunque percentuali abbastanza ridicole e che alla fine fanno arrivare solo al 29% la media dei docenti che hanno seguito questo iter lungo tutto un anno sostanzialmente, con incertezze complete che abbiamo ascoltato anche da questi microfoni. Abbiamo visto che non c'era, ci sono state anche, poi magari adesso ne parliamo, delle contestazioni, delle commissioni che non si riunivano perché mancava il presidente, perché si dimettevano anche i commissari, si cercava disperatamente durante l'estate dei docenti che potessero andare a correggere i compiti scritti di questi aspiranti insegnanti o a fare le prove orali. E abbiamo sottolineato che, diciamo, le risorse messe dal ministero erano ridicole, parliamo anche di pochi euro a persona per correggere delle prove, quindi un'umiliazione sotto tutti i punti di vista per questo risultato. Meno di pochi euro a persona, ricordiamolo, nel senso che per correggere le prove scritte e per fare le interrogazioni orali, che nella regione Lazio ancora non ci sono state per la maggior parte delle materie, era previsto un forfè d'ingaggio di 200 euro e poi 50 centesimi a prova o a candidato interrogato. Quindi, insomma, vuoi monetizzare la prova del valutatore, ma insomma il lavoro va pure pagato, se non lo paghi forse... Sì, no, appunto, se non lo paghi le persone il lavoro non lo fanno, perché si è parlato giustamente di fallimento organizzativo della macchina, del concorsino o concorsone, come lo vogliamo chiamare, però in realtà il fallimento organizzativo è stato un fallimento, come sempre nella scuola, di mancanza di risorse, cioè di un concorso che si è voluto fare a costo zero, ai minimi costi possibili e sfruttando in tutti i modi la professionalità degli insegnanti, perché a fronte dei compensi che erano previsti e che erano quelli che sono stati citati proprio adesso, veniva richiesto, appunto per questa ossessione fittizia o comunque indotta, di finire, di terminare le procedure entro il 31 agosto, ritmi di lavoro a luglio e agosto forsennati, insomma, senza che nemmeno fosse previsto l'esonero totale dall'insegnamento, mi pare di ricordare, no? Per cui veniva richiesto, per esempio, a chi andava a scuola fino a giugno di trascorrere il pomeriggio e il sabato a correggere per questo tipo di compenso, e quindi veramente una cosa che è stata ritenuta, e ne abbiamo parlato, offensiva della dignità dei lavoratori, chiunque essi siano. Sì, peraltro la catastrofe è anche sui numeri, perché abbiamo 3.000 persone assunte, in realtà la promessa era ben altra, perché si parlava di 12.000 docenti che piano piano, durante, come dire, il passare dei mesi, il cambio del ministri, diventavano sempre meno. Probabilmente hanno sbagliato i conti o forse hanno ulteriormente ristretto la cinghia, perché per le immissioni in ruolo in realtà il ministero, sempre con questa tabella del 2 settembre, dichiara di avere disponibilità di posto per quest'anno di 25.000, oltre 25.000 posti. Quindi loro dichiarano che ci saranno almeno 25.000 posti disponibili per tutti gli ordini di scuola e di assumerne 11.000. Perché hanno fatto delle ipotesi di percentuale, quindi hanno stabilito che, per esempio, nella secondaria di secondo grado, quindi le scuole superiori, licei, istituti tecnici, eccetera, dove per esempio ne servono oltre 3.000 insegnanti, di immetterne in ruolo quest'anno soltanto il 30%. E quindi come dire, il taglio è, come dire, è alla base. C'è una tabella che è disponibile per tutti e si vede che al numero di disponibilità di un posto normale, detto normale nel senso che è libero e quindi può essere dato a persone che diventerebbero così docenti a tempo indeterminato, che ci sia un taglio a monte, e quindi questo taglio hanno così previsto il 30% alle scuole superiori, il 34,5% di tutti i posti disponibili alla scuola media viene dato, come viene assegnato, il 44% alla scuola primaria, il 45% alla scuola d'infanzia, il 50% del sostegno. Quindi di fatto loro dicono che dei posti disponibili noi ne assegniamo mediamente intorno al 30-40%, e questo ha mandato, diciamo, ha fatto un po' sorgere la bocca a alcuni sindacati, GILA, CGL, che parlano appunto del fatto che oltre 30.000 sono le cattedre mancanti, vacanti, e che queste non vengono assegnate a fronte dei centinaia di migliaia, almeno 100.000 precari, o, diciamo, che peraltro in questo modo, se uno non assegna neanche i posti disponibili, vacanti, ai docenti, ai docenti precari, a quelli che hanno diritto, e poi vediamo da dove provengono tutte queste emissioni, in realtà stai creando ulteriormente altro precariato, perché viene assegnato ai precari o storici o che poi come dire, entreranno magari per la prima volta come supplenti o temporanei o fino alla fine delle lezioni, però comunque Non stai arginando il problema del precariato che tu dichiari di combattere, ma lo stai alimentando. Comunque, di fatto, del problema del precariato non gliene importa un fico secco, nel senso che comunque è quello che vogliono, che hanno creato, perché da diversi anni appunto è un fenomeno che è sempre in crescita relativamente, perché comunque con la diminuzione dei posti di lavoro e il taglio totale alle pensioni ovviamente poi non lo è. Io non ho qui adesso i dati, ma leggevo, insomma, diverso tempo fa che non c'è un calo delle iscrizioni complessivo. Quindi se invece poi vedi che classi di concorso, materie che storicamente non hanno mai avuto problemi, cominciano invece ad avere dei soprannumeri a livello provinciale, il che significa che ci sono docenti di ruolo con magari diversi anni di insegnamento che non hanno un posto e ogni anno cambiano come appunto un supplente annuale, allora ti rendi conto che le cose non stanno così. E volevo ricordare ancora il grande strombazzamento mediatico che ha fatto l'ex ministro Profumo rispetto a questo concorso, che doveva risolvere tutti i mali della scuola e del precariato, come se non si aspettasse che, insomma, poi arrivavano 300.000 domande. E un'altra cosa, adesso è uscita una circolare di recente che rimette in gioco per le pensioni chi aveva i requisiti ante Fornero, ovviamente nel 2012, non che li ha maturati adesso, purché sia in classi di concorso in esubero. Questa è una pezza a colore che sicuramente poi porterà a poco quantitativamente, ma che, insomma, evidentemente senza penalizzazioni, perché altrimenti poi la gente magari non ci sarebbe andata comunque in pensione, anche se io questo non lo capisco, ma insomma non voglio entrare nelle tasche delle persone, perché poi ovviamente con le penalizzazioni c'hai decurtazioni forti, insomma. Quindi anche questo è come se i ministri non sapessero, no, che faceva il ministro vicino, ma nemmeno che faceva la mano destra famosa, che non sa quello che fa la sinistra, perché fare un concorso così, indirlo con tutto questo strombazzamento, ripeto, a fronte di un blocco totale praticamente dei pensionamenti, non ha senso. Di fatto poi i posti, come dicevi te, ci sono, però continuano. E poi mi domando, in tutti questi 13 anni, 14 anni, 13 rispetto all'anno scorso, dall'ultimo concorso, comunque i posti vacanti c'erano e non venivano nemmeno occupati dallo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, le graduatorie permanenti. Quindi c'è una volontà precisa di mantenerli, perché se io ho un precario a tutti i livelli, ovviamente, o qualcuno che mi lavora, come per esempio nel comune di Roma, fa lo stesso identico lavoro di un dipendente comunale nei musei o nelle biblioteche, ma è dipendente di Zedema in questo caso, io taglio il contratto con Zedema, io non ho licenziato nessuno, e lo stesso vale perché i posti comunque sono diminuiti, ma non hai licenziato nessuno. No, no, ma infatti è verissimo. Io volevo tornare un attimo su questo aspetto dello strombazzamento mediatico del ministro Profumo, che obiettivamente aveva lanciato il concorso con termini veramente roboanti, presentandolo appunto come lo strumento attraverso il quale si sarebbe arrivati all'abolizione completa sostanzialmente delle graduatorie. E mi fa piacere ricordare che il ministro aveva dichiarato più volte che i posti messi a concorso sono effettivamente i posti pari alle necessità, i posti pari alle necessità, quindi ai posti di diritto, e che quindi non ci sarebbero state graduatorie, non ci sarebbero state liste di idonei, e quindi il concorso non avrebbe dato luogo alla creazione di ulteriori graduatorie, mai più graduatorie. Vista a Profumo del primo settembre dell'anno scorso, mai più graduatorie, da adesso in avanti avremo vincitori pari ai posti disponibili, chi non riuscirà a passare ci riproverà in primavera e poi ogni due anni avrà un'occasione, scusatemi. Non formeremo più nuove graduatorie, cercheremo solo di svuotare quella esistente che tante frustrazioni ha creato. Non sto facendo miracoli, sono solo riuscito a ripristinare il turnover dopo anni di blocco. Tanti insegnanti vanno in pensione, tanti ne entrano, tant'è vero che, come abbiamo detto alcune volte, si era addirittura sbagliato a calcolare il numero dei posti disponibili da mettere a concorso, perché il ministro Profumo e i suoi collaboratori non avevano tenuto conto degli effetti della riforma Fornero. E continua Profumo: vorrei lasciare in eredità ai giovani, e sempre il primo settembre dell'anno scorso, una nuova fiducia nei concorsi di Stato. Quelli che faremo noi saranno puliti e porteranno i vincitori in cattedra. E su questo volevo solamente dire che alla fine di questa operazione non ci saranno più solo due graduatorie come fino ad oggi c'erano, le graduatorie dell'ex concorso del 99-2000 e quelle in esaurimento, ma ci saranno tre graduatorie. Vi ricordo, per chi ci ascolta, lo 06 49 17 50 se volete parlare con noi di questo. Non me l'avevamo ancora ricordato, ma ci fa molto piacere se ci volete chiamare, 06 49 17 50. Sì, peraltro io invece ricordo anche le interviste in uscita di Profumo quando ha lasciato con, se diciamo, Dio vuole. Sì. Il suo posto, chiamato a un bilancio del suo operato, beh, lui, come quasi unica cosa a proprio merito, ha detto: beh, i tempi e le modalità certe per l'ingresso dei docenti in ruolo. Quindi veramente una faccia. Vabbè. E volevo aggiungere queste due cose. Uno, fare per esempio fare alcuni esempi. Nella provincia di Roma, appunto, siamo andati a vedere, e nella classe di concorso a 049, che è matematica e fisica nei licei, vengono dichiarati dal ministero 14 posti disponibili. Beh, sono stati immessi 4 docenti. A 051, che è invece la... No, dal, complessivamente, sì, no, dal concorso zero, perché il Lazio, diciamo, ha avuto difficoltà, diciamo, record, poi magari possiamo anche parlarne. E la 051 invece, che è la classe di italiano e latino, sempre alle superiori, anche qui 12 posti disponibili, 4 docenti chiamati, messi in ruolo ovviamente dalle graduatorie. La 048, che invece è matematica applicata, quindi tecnici, commerciali, eccetera, non ha alcun posto disponibile, ci sono 6 sovrannumerari, quindi, come dire, queste persone, ci sono 6 persone che devono trovare una sistemazione, un'alternativa. Sì, è la stessa situazione della 052, che credo abbia 7 soprannumerari sulla classe di concorso, per cui erano stati banditi 20 posti sulla regione Lazio. Mm-hmm. E proprio per finire sui canali per entrare nelle graduatorie, per entrare in missione, come dire, il ministero nasconde queste, un po' trucca queste cifre, perché dichiara che il 38% vengono dai concorsi, in realtà facendo intendere che è l'ultimo concorso. Invece, se andiamo a vedere, dei 4.000 docenti che per quest'anno possono festeggiare il tempo indeterminato dopo l'anno di prova eccetera eccetera, soltanto abbiamo detto 3200 vengono dal nuovo concorso, ancora 844 sono chiamati da due concorsi, i due vecchi concorsi, quello del 99 e quello del 90, c'è ancora gente che è chiamata da quella vecchia, da quel vecchio concorso. Con l'aspetto allucinante che le graduatorie del concorso del 90 decadranno nel momento in cui entreranno in vigore dappertutto le graduatorie dell'attuale concorso, quindi tu hai bandito un concorso per posti per cui c'erano vincitori già di un concorso di 20 anni. Magari hanno rifatto perché a quel punto affidati, dice io sì, poi magari. E quindi infatti andando a vedere io non riuscivo a capire per quale motivo ci fossero, come dire, numeri discordanti. In realtà di 4.000 posti assegnati con il concorso ufficiali, quindi come dire vantati come un criterio oggettivo, un criterio finalmente certo, noi stiamo ancora immettendo gente che ha vinto, ha superato un concorso 23 anni fa. Io vorrei ricordare per chi ci ascolta e che magari non è dentro la scuola che questo concorso appunto è stato bandito l'anno scorso dal ministro Profumo sotto il governo Monti, sbandierandolo così come è stato detto, e è stato bandito per 12.000 posti e poi ne sono entrati 3 o 4.000 abbiamo detto al momento. Io ricorderei che 12.000 posti sono niente nella scuola pubblica italiana, perché si sta parlando della scuola a tutti i livelli, nazionale eccetera, e che esistevano già persone abilitate che stavano in una graduatoria e che potevano semplicemente essere assunte senza spendere una lira, mentre sono stati spesi credo circa 160 milioni di euro per fare questo concorso. E quelle persone che potevano essere assunte erano le stesse persone che a titolo precario coprivano quei posti ogni anno e facevano funzionare la scuola. Sì, e non erano senza titolo, perché allora io vorrei ricordare anche questo, chi è che è arrivato in fondo a questo concorso? Si sono iscritte più di 300.000 persone, erano 320.000 se non sbaglio, erano di più di 300.000, è stato fatto a loro, però chi si poteva iscrivere? Quasi solo abilitati, cioè persone che già avevano fatto quindi la SIS, la scuola di istruzione superiore di 2 anni, che veniva richiesta, che era stata aperta rimasta aperta per 10 anni e poi chiusa alla Gelmini, oppure che si era abilitato con un concorso precedente, oppure c'erano pochi altri casi in cui si poteva, ma la maggior parte erano persone già abilitate. È stato quindi venduto come un concorso per abilitati sostanzialmente. Quindi persone che potevano sedersi in cattedra e avevano tutti i titoli per svolgere quel ruolo da quel momento fino alla pensione. A queste persone è stato chiesto prima di rispondere a un test a crocette su un computer che veniva fornito a un indirizzo a cui venivano mandati di una scuola pubblica. Quindi molte scuole della Repubblica sono state chiuse per 3 giorni per permettere questo, e molti studenti e studentesse hanno perso 3 giorni di diritto allo studio perché la scuola era chiusa per permettere lo svolgimento di questa prova preliminare. Dopodiché è stato chiesto loro di fare uno scritto, e nella maggior parte dei casi erano più di uno perché le cattedre sono composite, bisogna non so, per lettere per esempio c'è quella di italiano, quella di latino, quella di storia, quella di greco eccetera eccetera, per matematica sarà altrettanto, matematica, fisica eccetera, quindi poi ovviamente anche quindi di prepararsi in una assoluta senza sapere su cosa sostanzialmente, perché il programma era talmente vasto che era impossibile assolverlo per intero, quindi le persone che hanno fatto questo concorso brancolavano nel buio nella preparazione sostanzialmente, cercando di studiare un po' di tutto, compresa la legislazione scolastica, compreso insomma un mondo, un mare. Dopodiché sono usciti i risultati degli iscritti e qualcuno ha potuto fare un orale, qualcuno, perché alcuni non sono ancora stati svolti. Dopodiché queste persone che hanno superato l'orale sono state dichiarate idonee, ma per esempio nella regione Lazio ancora non sanno, anche chi l'orale l'ha potuto fare e l'ha superato, se avrà un posto, perché i posti sono tot, manca la valutazione dei titoli e quindi non si sa qua, per esempio, io vi dico l'esempio che conosco, per quanto riguarda lettere alle scuole medie e negli istituti tecnici, hanno superato l'orale circa 350 persone, i posti sono 200, però tuttora nessuno lo sa quali sono i 200 che entreranno, non si sa quando, e non solo, questi che entreranno non si sa quando, appunto, perché quest'anno non entra nessuno di loro. Quindi un anno intero della propria vita è stato speso dietro a questa fregnaccia del concorso, facendo anche molta fatica, perché poi uno la mattina va pure a lavorare mentre deve preparare, eccetera, si deve preparare per il concorso, eccetera, e nella loro vita poi di quest'anno, nella loro vita lavorativa, non è cambiata niente. Cioè sono andata alle convocazioni, se gli è andata bene gli è toccato un posto da precari, se no non gli è toccato niente, e il futuro resta incerto quante più di prima. Certo, sono persone che già erano nella graduatoria e quindi forse avranno un posto da lì, ma c'erano già prima, quindi non avevano bisogno di tutta questa cosa. C'è chi comunque poi, infatti, stando nella graduatoria, poi ha deciso in piena consapevolezza di non farlo il concorso, perché magari stava a posti abbastanza elevati, ha fatto questa scommessa, insomma, no? Sì, e non tralasciamo i pasticci che sono stati combinati per, chiamiamola fretta, però diciamo un anno è durato il concorso, incapacità, quello che vogliamo, ma alcuni giornali hanno riportato dei dati sempre nel Lazio in cui, come dire, anche chi ha superato il concorso poi non è stato ammesso per esempio all'orale, e quindi ci sono dei ricorsi aperti un po' dappertutto, però nel Lazio, a Roma, ci sono situazioni veramente raccapriccianti di aspiranti docenti che chiedendo l'accesso all'atto, cioè di vedere il proprio compito corretto, beh, si sono accorti che avevano superato il concorso e invece sono stati dichiarati bocciati. Io vorrei ricordare un'ultima cosa su questo. Tutto questo serve per fare l'insegnante della scuola pubblica italiana, e cioè per riscuotere al massimo 1.300 euro al mese, che io sono consapevole ci sono molte persone che ne guadagnano meno, però tanto per fare il riassunto del riassunto, si tratta di persone che hanno preso una laurea specialistica, hanno preso una specializzazione da altri 2 anni a pagamento con frequenza obbligatoria, poi sono stati sottoposti a mediamente una decina d'anni di precariato, e in mezzo a cui c'è stata questa farsa del concorso che è servito unicamente a Profumo a far parlare di sé. Perché io sinceramente non ci credo nemmeno fino in fondo alla spiegazione del fatto che hanno sbagliato, che non sanno, che non capiscono, eccetera. Io penso che non gliene importi assolutamente niente di quale sia la realtà. Loro vanno da dire delle cose e l'hanno dette, molto spesso sanno di mentire nella maniera più spudorata, ma siccome in realtà non stanno amministrando la scuola pubblica ma stanno facendo propaganda, questo viene fuori. Comunque sì, mi veniva in mente, pensavamo di aver toccato il fondo con la Gelmini, adesso io non mi pronuncio ancora sulla ministra Carrozza, perché non nel senso perché non c'ho un'idea, ma perché insomma è uscito un decreto, lo analizzeremo insieme a chi ci ascolta, un decreto sulla scuola che già c'ha dei punti insomma che non vi anticipo, sono quei malloppi che tu devi stare lì le ore perché rimandano a decreti precedenti, insomma un lavoraccio, però insomma qualche cosa già si capisce. Il discorso è che questi non è che sono inefficienti, inesperti, eccetera, questi hanno un disegno chiarissimo che è quello, dobbiamo ripeterlo, della distruzione della scuola pubblica a vantaggio ovviamente della scuola privata. Del resto è qualche cosa che per esempio negli Stati Uniti lo vediamo dai film, che spesso bontà loro si occupano, se non altro insomma da quelli, della situazione delle scuole pubbliche insomma superiori e non, e quindi è questo poi il modello probabilmente che cioè sicuramente a cui si vuole arrivare. Resta il fatto che ritornando anche alla lettura della lettera degli insegnanti e delle insegnanti della secondaria in Grecia, che non si può cioè stare lì ad aspettare in finestra che la situazione peggiori o che migliori da sé, perché questo semmai peggiora da sé, al di là delle intenzioni di chi la vuol far peggiorare, migliora da sola è difficile. E qui riandiamo anche a un discorso sui lavoratori e le lavoratrici della scuola, che comunque poi si agitano quando vengono toccate delle cose particolari, come per esempio l'anno scorso la storia delle 24 ore, che, attenzione, ci torneremo, non è chiusa per niente la questione delle 24 ore di lezione, ma è qualcosa che sicuramente ritireranno fuori. Del resto era, anche loro hanno dichiarato al governo che era una marcia indietro momentanea, insomma, per chi lo voleva capire l'ha capito. E quindi invece di muoversi solo su queste cose, di riflettere su quello che sta succedendo, non c'è bisogno, insomma, di aggiungere altro. E va da sé che c'è anche un'altra cosa, per tornare alla lettera, questo appello appunto a una lotta insieme, in cui c'è un passaggio molto significativo e anche bello: la lotta la pagheremo noi, non ve la vogliamo certo accollare a voi, dicono gli insegnanti in Grecia. E qui va un po' il pensiero a tutto quello che è successo all'inizio dell'anno scorso, dopo questo discorso delle 24 ore, con un movimento degli studenti medici che era montante, era forte, che a cui insegnanti nel loro complesso hanno sostanzialmente sbattuto la porta in faccia. Ci stiamo avviando verso la chiusura di questa trasmissione, abbiamo chiacchierato molto come il nostro solito, vorremmo quest'anno, e ci sforzeremo di farlo per parte nostra, provare insomma a aprire maggiormente il dialogo e il confronto con chi questa radio l'ascolta, e non solo con noi che stiamo parlando insomma nei microfoni di questa radio. Quindi adesso la trasmissione sta per finire, ma vi ricordo ancora che lo 06 49 17 50 è il numero per entrare in trasmissione, e nel frattempo vi ricordo anche che abbiamo una mail che è oradibuco@ondarossa.info, abbiamo un blog su cui potete vedere insomma le trasmissioni dello scorso anno, riascoltarle, che è oradibuco.noblogs.org, e appunto dalla prossima trasmissione cercheremo insomma di aprire maggiormente i microfoni, insomma, di quanto abbiamo fatto lo scorso anno, proprio perché pensiamo che al di là dell'informazione, che sulla scuola è sempre carente e distorta e quindi necessario fare, anche il confronto insomma sia assolutamente necessario per cercare di esprimere una parola di senso ogni tanto. Anticipiamo insomma che sicuramente nelle prossime trasmissioni parleremo di questo decreto scuola, parleremo ancora ovviamente del concorso, cercando di aggiornarci su quelli che sono gli sviluppi, parleremo della situazione degli inidonei e delle inidonee, cioè di coloro che non essendo idonei all'insegnamento per tutto l'anno scorso devono essere destinati ai ruoli amministrativi e tecnici nella scuola. Insomma, ne abbiamo parlato l'anno scorso, c'è qualche novità ma va interpretata, e quindi insomma, e poi ovviamente ci occuperemo, se ci saranno, come mi sembra che ci saranno, delle mobilitazioni anche degli studenti e delle studentesse. Detto questo, penso che per questa prima puntata abbiamo finito, sono le 17.01, questa appunto è Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, ma andrà in onda di nuovo martedì prossimo, sempre sugli 87.9, dalle 16 alle 17, mentre per quanto riguarda questa radio adesso vi aspettano paio d'ore di tracce musicali fino alla GR di questa sera, perché il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche riprenderà martedì prossimo 1° ottobre, mentre adesso vi lasciamo alla musica di Radio Onda Rossa fino al GR.